filosofia positivista era il perno delle mie idee. Un conte che alzava templi dentro alle cattedre europee, che amava religione dell'uomo o il suo nuovo altare. Nove sacramenti scritti in nome del sapere. Diceva alle donne: la mia fede porterò, sono loro che più a fondo capiranno ciò che so. Ma sotto il velo di scienza e sociologia c'era la sua morale travestita da teoria. E mentre scrive catechismi in nome della ragione, la sacralità rimossa torna in ogni espressione. È davvero morto Dio, come dicevi tu, Nietzsche? O è l'uomo che ha paura di guardarsi dentro bene? Tra il laboratorio e l'altare c'è una linea sottile. Quella morte come un colpo di pistola, lei vinta dalla tisi, lui perso nella sua scuola. Dall'ottimismo realista dei primi suoi sistemi passò a un cielo metafisico contro i suoi stessi schemi. Stimava tanto le donne ma le voleva in ginocchio. Monogamia forzata, obbedienza per precetto, disprezzava i rivoluzionari, gli anarchici, i marxisti, e benediva gli imprenditori come i nuovi moralisti. E mentre il secolo avanzava tra macchine e ferite, la sua religione come dicevi tu, Nietzsche, o l'Europa era soltanto troppo stanca per vedere. Dopo il sangue del Novecento e le città in rovina, abbiamo chiamato progresso anche la notte più assassina. Se la scienza è la luce che ci indica la via, chi raccoglie il pianto quando il senso vola via? Forse la ragione può guidare ancora la fede, perché nell'uomo in fondo il sacro non si vede ma si crede. Abbiamo fatto del cervello il nostro unico altare, ma il cuore continuo ostinato a domandare che cosa resta dopo i numeri e i grafici perfetti quando ti crolla. La stessa antica sete di significazione. Ora guardo questa epoca che crede di aver capito. Tra un algoritmo e un sondaggio dice il mistero è finito. Ma dietro ogni cazione, dietro a ogni esperimento, c'è ancora un uomo fragile che trema dentro al vento. Le tragedie del Novecento le stiamo già scordando, come Conte coi suoi fantasmi che scacciava delirando. Eppure ogni funerale, ogni stanza d'ospedale, qualcosa in noi sussurra che non tutto è razionale. È davvero morto Dio, l'abbiamo solo nascosto, tra un referto, un vaccino, tra un processo. Silenzio che... si vede.